Abbiamo ascoltato il brano sigla di questa trasmissione che è iniziata adesso, è una trasmissione che si chiama Zardis Magnetics e va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine dalle ore 20:15 alle 21:30. Il brano era Retribution dei Behind Enemy Lines. Ora, prima di far partire il primo intervento, e andiamo all'ascolto di uno o due brani di questa band francese, dal loro album datato 2009. Loro sono i francesi Shahid. Tonka gulpa ikar düşman. Allen gaj bugüne madam. Allen gaj bugüne. Allen gaj bugüne. Tonka faulu düşman kıfer. Oh, Buonasera a tutte e a tutti. Questa sera vorrei leggere insieme a voi un importante articolo uscito nel numero 11 della rivista anarchica I giorni e le notti. La rivista è uscita a luglio 2020, si può richiedere qui a Zardins Magnetics agli indirizzi soliti che vi ricordiamo come sempre a fine trasmissione. Oppure si può richiedere direttamente al circolo La Nave dei Folli, via Santa Maria 35, 3603. 68 Rovereto Trento, o infine scrivendo una mail a rivista i giorni e le notti @autistici.org. L'articolo di cui voglio proporre la lettura si intitola La parola e la cosa a proposito del progetto rivoluzionario ed è comunque reperibile anche in rete. Si tratta di uno scritto che vuole mettere in questione i movimenti rivoluzionari e il loro rapporto con i mezzi di produzione. Lo fa a partire da un commento a una raccolta di interventi tratti da una rivista francese attiva negli anni Ottanta del secolo scorso che si chiamava Encyclopédie des Nuisances. Dunque, una messa in questione del movimento, inteso anche in senso letterale di una realtà che si muove, e del rapporto con i mezzi che servono per la riproduzione della società o per la sussistenza, che dir si voglia. All'inizio di questo lungo articolo della rivista anarchica I giorni e le notti ci si chiede intanto per quale motivo, per parlare su una rivista che poi si dice anarchica, di questa questione ci si rifà a testi che hanno visto la luce tra il 1984 e il 1989 e che quindi hanno oltre 30 anni di vita. Tra l'altro, appunto, si tratta di testi che possono essere ricondotti per lo più all'area situazionista francese di quegli anni, che comunque riprendevano le tesi del comunismo consiliare. In ogni caso, testi dell'Encyclopédie des Nuisances propongono come paradigma di società i consigli, ovvero una forma di organizzazione sorta nelle rivolte dopo la Prima Guerra Mondiale che si svolse in Germania. E questi consigli furono in seguito teorizzati e risignificati in senso antiriformista appunto all'interno dell'internazionale situazionista, per lo più in Francia, negli anni 60, dagli anni 60 in poi. ottobre, ore 14:30, Cinema Smeraldo. Agli amici della stampa e fotografi a lasciare la sala e diamo la parola al compagno Mattina per l'introduzione della discussione di questa riunione. La Fiat, subordinatamente all'attuazione degli impegni assunti ai punti 3 e 7, nel presupposto del corretto funzionamento di tutti gli istituti convenuti, provvederà a richiamare dalla Cassa Integrazione Guadagni, per il loro reinserimento nell'attività lavorativa, quei lavoratori che al 30 giugno del 1933 si trovino ancora in integrazione salariale. Compagni, fatemi finire, dobbiamo sentire tutto, compagni. Sentiamo tutto, poi ci sono gli interventi. Ho detto che provvederà a richiamare quei lavoratori che ancora, e comunque tutti rientrano, significa. Ogni contratto che noi abbiamo fatto, io da quando faccio la militanza di 12 anni, non ho sentito mai che qualcuno dei dirigenti abbia firmato un contratto e abbia detto che non era avere i punti positivi dentro. E il fatto che i compagni della dirigenza, non ti preoccupare perché io non mi commuovo per nessuno, dai, calmo e tranquillo, non ti agitare che io sono da tanto tempo agitato. E il fatto che devono capire che il delegato, quando entra alle 6:30 dentro la fabbrica, porta i problemi suoi familiari, si scontra con i problemi degli altri lavoratori all'interno della fabbrica, si scontra con i problemi del lavoro e con il padrone, e deve sopportare anche le malefatte che ci fanno i dirigenti con le loro dichiarazioni. Questo momento l'aspettavo da 12 anni per dirlo a tutti quanti. E che non c'è nessuno più che all'interno della fabbrica con queste condizioni può andare avanti. Ma c'è un problema concreto, compagni. Con chi? Con chi si contratteranno nelle scadenze di cui si parla all'interno di questo, di questa proposta di mediazione? Con chi contratteranno quando tra questi 23.000 avranno fatto fuori? Avranno fatto fuori la parte più importante della classe operaia della Fiat, non parlare non della Mirafiori ma di tutte le fabbriche Fiat. Quale struttura consigliare esisterà in fabbrica? Quale controllo operaio e sindacale avremo in fabbrica? E allora è cartaccia questa! Ma dopo la contestazione nel maggio 68 il paradigma consiliarista sparisce dal radar della teoria. Il punto è che il processo di ristrutturazione industriale, affermatosi definitivamente in Europa negli anni 80 del Novecento, fu un attacco alle possibilità immanenti alla società di una propria trasformazione rivoluzionaria. E queste possibilità furono colpite a morte, ovvero, per ritornare al comunismo consiliare e al suo nesso con un certo tipo di realtà sociale, quella realtà cioè dove la fabbrica occupa un ruolo fondamentale, la ristrutturazione lì in fabbrica e nei quartieri cancellò, almeno alle nostre latitudini, tutto un patrimonio di concetti e di pratiche della classe operaia, che si ritrovò disgregata e spersonalizzata in un sistema di falsi io, nient'altro che una forma di adattamento al genere di dominio reale del capitale che stava trionfando. Inoltre, oggi è diventato improponibile prospettare una organizzazione della società liberata senza insieme prospettare la liberazione da una fra le più ecocide tensioni del capitale, cioè quella tecnologica progressista. Impossibile, cioè, pensare una società liberata dal dominio del capitale senza liberarsi dalla società cibernetica. Adesso che siamo entrati nel merito della questione posta da questo lungo articoletto, viene in parallelo presentata la tesi che si va a sostenere, cioè che è vero che i consigli sono stati l'ultimo progetto rivoluzionario visto in Occidente e per questo vengono costantemente riproposti e rivisitati, ma in effetti, a guardare da vicino, essi furono prima una prassi degli sfruttati del proletariato e solo successivamente una teorizzazione politica. Venuti meno, grazie soprattutto all'intervento repressivo dello Stato, senza il quale i padroni non avrebbero mai potuto avviare la rivoluzione telematica, luoghi, mentalità, capacità organizzative costruiti dentro la resistenza a quel ciclo del capitalismo, l'offensiva rivoluzionaria si è trovata hors sol, come le fragole nelle serre industriali. La trappola era proprio l'idea che si dovesse contendere al dominio di classe il terreno dello sviluppo tecnico. Per cui una prima stazione raggiunta nel nostro esame della questione tra movimenti rivoluzionari e il loro rapporto con i mezzi di produzione è che in generale la prospettiva rivoluzionaria diventa una forza reale quando illumina quello che una parte di sfruttati sta iniziando a fare, cioè diventa un sapere e rende possibile un nuovo uso di questo fare. I movimenti oggi sembrano guardare indietro di contro all'offensiva di Stato e padroni perché sono costretti a ricercare nel tempo perduto, o meglio, per meglio dire al tempo in cui si è desiderato, in cui si è subita la repressione, e in questa ricerca all'indietro i movimenti possono determinare le potenzialità inespresse e di quel desiderio rivoluzionario. Nel loro indietreggiare apparente, i movimenti rivoluzionari tornano indietro fin dove trovano una concezione positiva della vita, una concezione di vita come desideri, relazioni, pienezza di senso, immersione in una comunità di effetti, eccetera, eccetera. Il cinema commerciale, come tutti le grandi aree di mercato, diciamo, ruba le nuove soluzioni, le intelligenze capaci anche di produrre nuovi desideri e nuovi bisogni, che fino a un certo periodo riguardavano soltanto le attività intellettuali. Adesso investono completamente il terziario. I lavoratori oggi sono i telespettatori che pensano di guardare la televisione e divertirsi, ma che in realtà lavorano e non lo sanno. Perché? Perché evidentemente tu più tieni acceso il televisore e c'è un sistema Auditel che sarà sempre più perfezionato, perché non va dimenticato che il digitale terrestre, per esempio, permetterà addirittura di fare dei controlli molto più sottili in questo senso. Perché così si possano tariffare gli spazi pubblicitari in base all'indice d'ascolto, e non dimentichiamo che un broadcast televisivo che cosa deve produrre? Non spettacoli, ma spettatori, che sono quelli che vengono venduti alle aziende che fanno la pubblicità. Quelle enormi spese della pubblicità vengono ricaricate sui prezzi delle merci in vendita nei supermercati. Ecco che quindi chi accende il televisore fa aumentare il prezzo della vita. Venendo ora al movimento anarchico, che si trova attualmente da solo nel prendere l'iniziativa contro lo Stato, c'è da dire che gli anarchici possono avvalersi di un piccolo vantaggio rispetto agli altri nei confronti della depoliticizzazione della società capitalista, nei confronti cioè di quella caratteristica corazza di ruoli e funzioni che rivestono tutt'al più gli individui, le loro menti alienate e i loro corpi desensibilizzati, e quella corazza che impedisce di tradurre le forme di protesta distruttive e autodistruttive, si pensi ai casi dei suicidi nelle carceri, di ineffettiva critica dell'esistente, ma le recupera in una prospettiva di legittimazione. Nei confronti di questa corazza, Lo schema dialettico prospettava un necessario passaggio transitorio, la presa e la direzione del potere in attesa di superarla e di distruggerla. Quando una minoranza, in costante diminuzione e sempre più dipendente dall'apparato, è incaricata di sfamare il resto della popolazione, la meccanizzazione e l'artificializzazione dei processi di produzione del cibo sono tendenze tanto disastrose quanto inevitabili, a loro volta foriere di devastazioni ecologiche sempre più gravi. Tutto ciò che il sistema tecno-mercantile ci sottrae da sotto i piedi si accumula, secondo gli imperativi dell'estensione e della profondità, verso un cielo di sciagure pronto a rovesciarsi sulla terra. Di conseguenza, parte integrante di una prospettiva di cambiamento radicale diventano i punti di applicazione attraverso i quali si può passare dai metodi decentralizzati di azione alle forme decentralizzate di vita. Forse mai nella storia il federalismo anarchico è stato così necessario e insieme tanto ostacolato da un accentramento di potere, ben più tecnico che politico, che si è incorporato negli ambienti materiali stessi. Gli anarchici invece hanno cercato dalle origini di far coincidere dimensione politica, economica e sociale come dimensioni implicate direttamente in una prassi. Sin dall'inizio delle primavere arabe nel 2011, l'onda arriva anche in Siria e anche il popolo siriano si ribella. Nell'ambito della rivoluzione siriana, il popolo curdo sceglie di non schierarsi con nessuna delle forze in campo, ma di cercare una soluzione ai problemi della Siria con quella che definiscono una terza via, l'autonomia democratica. I curdi del Rojava, il 15 maggio 2011, ufficialmente dichiarano l'esistenza di YPG, unità di difesa del popolo, per garantire la propria autodifesa. Il 19 luglio del 2012 i curdi occupano i posti pubblici e dichiarano l'autonomia democratica per Kobane. Nel corso di 8 mesi completano l'organizzazione del proprio sistema di difesa e di amministrazione. In questo modo dimostrano al mondo intero la possibilità di un modello alternativo per risolvere i problemi, l'autonomia democratica. Oggi vediamo che le sempre più numerose rivolte, sempre più disseminate in giro per il pianeta, sono caratterizzate dall'intenzione di contendere allo Stato l'ambito pubblico, contendere cioè allo Stato una realtà in cui siano possibili forme di comunicazione liberata, ad esempio Gezi Park e le comuni nella Siria del Nord. I movimenti si formano e prendono vita in quegli spazi che non hanno più a che fare, come la fabbrica, con la riproduzione dell'esistente, che sono geograficamente sfuggenti e che hanno a che fare con una presa di parola. Nelle conclusioni, questo articolo propone di praticare un federalismo degli esempi che possa, grazie a un processo di germinazione spontanea, trasmettere da un punto locale all'altro la propria carica sperimentale, mettendo insieme tutti gli aspetti più disseminati del disegno totalitario. Nella sperimentazione di questo progetto si potrà riempire il collaudato metodo di azione anarchico con i contenuti e le pratiche con le quali si trasforma la vita. E la critica Come visto in precedenza a proposito dei consigli operai, non può fermarsi alla forma, unanimità contro maggioranza, delegati revocabili contro portavoce permanenti eccetera, bensì scendere sul piano dei contenuti, i quali non sono tanto i discorsi, quanto le pratiche con cui si trasforma la vita, cosa si mette in comune oltre alle parole, il rapporto fra auto-organizzazione della violenza e dialogo reale, gli ambiti sociali che vengono toccati e travolti dalla lotta. In breve, il grado di irreversibilità raggiunto da un movimento. Sono davvero tanti gli spunti di discussione offerti da questo articolo che abbiamo cominciato a vedere questa sera. Ma noi ci fermiamo qui ed è tutto per questa sera. Da parte mia un saluto, alla prossima volta. Sottofondo stiamo ascoltando i Soviet Order Zero, band di Milano, dal loro album In Dispart uscito nel 2019, band che ha un forte legame qua con la zona di Udine, insomma con il Friuli, e che anticipiamo che nelle prossime settimane uscirà un loro prossimo lavoro, uno split 7 pollici assieme appunto ad una band friulana. Comunque ci faremo ascoltare, comunque lasciamo questi andare ancora, questi Soviet Order Zero. Sì, un saluto anche da parte mia a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di The Rings Magnetics. Stasera vorrei parlare dell'operazione repressiva Scriptamanent. Abbiamo già lo scorso giovedì avevamo parlato di un'altra operazione repressiva sempre ai danni degli anarchici, e cioè l'operazione Ritrovo, spegnere le antenne, risvegliare le coscienze, e avevamo accennato a questa sentenza infame d'appello, che appunto risale al 24 novembre. E stasera appunto approfondiamo un po' questo discorso. Allora, intanto premettiamo che l'operazione repressiva Scriptamanent scatta nel settembre 2016. Durante il mese di settembre 2016 vengono arrestati e messi in carcere preventivo 7 compagne e compagni. Il pubblico ministero nel processo, che inizia nel 2017, è il procuratore Sparagna, il quale costruisce l'impianto accusatorio sulla associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, poi sul reato di strage e in seguito anche sulla istigazione a delinquere, sempre con finalità di terrorismo. L'inchiesta fa riferimento ad una serie di attacchi avvenuti tra il 2003 e il 2012 contro forze armate, uomini di Stato, giornalisti più o meno collusi con questi uomini di Stato, ditte coinvolte nella ristrutturazione degli allora CIE, quindi attacchi non contro civili, diciamo, ma contro strutture e soggetti di potere. Rientra nell'inchiesta anche il ferimento dell'ingegnere Adinolfi di Ansaldo, che è l'amministratore delegato della Ansaldo Nucleare, che era già questo ferimento era già passato in giudicato e rivendicato da Nicola e Alfredo, che si trovavano già in carcere dal 2012. Alle compagne e ai compagni si contesta la costituzione e partecipazione ad associazione sovversiva, cioè 270 bis del codice penale, l'attentato con finalità di terrorismo, 280 del codice penale, l'istigazione a delinquere ed apologia di reato, articolo 414 del codice penale, per articoli, siti, blog e progetti editoriali anarchici. Il PM Sparagna vuole processare gli ultimi 20 anni di storia dell'anarchia, ma anche la solidarietà anarchica. Per fare ciò utilizza la strategia del fare scempio di nomi e idee di compagni anarchici che rappresenterebbero l'anarchismo insurrezionale buono, contrapposto all'anarchismo criminale rappresentato dai compagni cosiddetti nichilisti. Ma, come dice Alfredo nella sua dichiarazione letta in aula il 9 settembre 2020, il PM dice che siamo isolati da tutto il movimento ed anche dagli altri anarchici, insurrezionalisti. Ma allora, come si spiegano tutti i manifesti in nostra solidarietà, i cortei e i presidi? E come si spiega che i compagni invitati qui a parlare contro di noi da Sparagna o non si sono presentati o sono venuti ad esprimerci solidarietà e a salutarci? L'aula vuota di questo tribunale in questi mesi non si spiegherà forse col fatto che ai compagni che sono venuti è stato consegnato regolarmente il foglio di via da Torino? Un classico della democrazia totalitaria. E allora diamo un po' di dati su questa sentenza d'appello, prima di ascoltare un intervento che è andato su Radio Onda Rossa dell'avvocato Flavio Rossi Albertini. Allora, la sentenza, abbiamo detto, del processo d'appello dell'operazione Scripta Manent colpisce 23 anarchici ed è stata emessa il 24 novembre 2020 nell'aula bunker del carcere delle Vallette di Torino. Vediamo un po' le condanne. Anna ha ricevuto una condanna a 16 anni e 6 mesi, in primo grado era stata condannata a 17 anni. Alfredo a 20 anni, in primo grado aveva sempre avuto la stessa condanna di 20 anni, in continuazione con la sentenza di Cassazione a 9 anni e 5 mesi e 10 giorni del processo per l'azione contro Adinolfi. Nicola è stato condannato a 1 anno e 1 mese, in primo grado a 9 anni, in continuazione con la sentenza di Cassazione a 8 anni, 8 mesi e 20 giorni del processo per l'azione contro Adinolfi. Per Anna, Alfredo e Nicola, confermata condanna per associazione sovversiva con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e per strage. Alessandro è stato assolto, in primo grado era stato condannato a 5 anni. Marco è stato assolto dall'accusa di associazione sovversiva con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Nel primo grado era stato condannato a 5 anni, ma condannato a 1 anno e 9 mesi per istigazione a delinquere in relazione a Croce Nera anarchica. I compagni Nicola, Alessandro e Marco sono stati scarcerati. A differenza del processo in primo grado, sono state emesse anche altre 9 condanne ad altrettanti compagni per istigazione a delinquere, inerenti a vario titolo la pubblicazione di Croce Nera anarchica, rivista aperiodica e sito internet, e la gestione di altri siti internet. Queste condanne variano da 2 anni a 6 mesi a 1 anno e 6 mesi. E specificamente, Gabriel è stato condannato a 2 anni, Stefano a 2 anni e 6 mesi, Elisa a 1 anno e 9 mesi, Ale a 1 anno e 9 mesi, Omar a 1 anno e 9 mesi, Sergio a 1 anno e 9 mesi, Gioacchino a 2 anni e 6 mesi, Erika a 1 anno e 6 mesi, Lello a 2 anni. Sono stati assolti da ogni imputazione altri 9 compagni anarchici, tra cui un compagno in carcere dal 6 settembre 2016 e scarcerato con la soluzione in primo grado il 24 aprile 2019, e una compagna in carcere e successivamente ai domiciliari. Ecco, questo per avere un po' un quadro generale del dispositivo di sentenza, e dopo un pezzo musicale mandiamo il contributo dell'avvocato Flavio Rossi Albertini. Bye. Allora, iniziamo prima a riferire forse i dati, diciamo, quindi il dispositivo di sentenza, perché chiaramente le motivazioni della decisione della Corte d'Assise Appello di Torino li avremo verosimilmente tra 90 giorni, forse più probabilmente tra 180, qualora dovessero richiedere una proroga. Allora, a mio giudizio il processo è andato male perché io difendo l'imputato che ha riportato la condanna più severa e perché ritengo che questa partita si giocasse intorno, o specificatamente intorno, alla ricorrenza e la ascrivibilità agli imputati di due reati, in particolare modo di due fattispecie di stragi che sarebbero avvenute, così qualificate dalla Corte d'Assise di primo grado, che sarebbero avvenute a Torino e a Fossano nel 2006-2007, per cui ormai molti anni fa, e su un altro, diciamo, l'altro tentativo compiuto e fino a questo momento andato a buon fine per la procura, ovvero di dimostrare per nel quinto processo istruito sulla scorta di una contestazione associativa per quanto riguarda la PAI, che effettivamente questo fenomeno esistente e innegabile, visto anche il numero di attentati che sono stati rivendicati con questa sigla, per cui da un punto di vista storico, sociale, sociologico chiaramente nulla questio, però che fosse effettivamente possibile ricondurla alla fattispecie incriminatrice, così si dice, di quell'articolo 270 bis. Quattro sentenze prima di questa di Torino avevano escluso la possibilità che la FAI potesse essere sussunta in questa, cioè per cui potesse essere ritenuta effettivamente una compagine associativa secondo il codice penale. E quattro sentenze l'avevano escluso in precedenza, la sentenza di Torino in primo grado è la prima a riconoscerla, con grande soddisfazione chiaramente per la Procura di Torino e l'antiterrorismo nazionale, che aveva tanto perorato la realizzazione di questo esito. Per cui dal nostro punto di vista, in realtà, per cui almeno dal mio punto di vista, poi magari posso estendere il giudizio a nome del Collegio di Difesa, però vorrei parlare per quanto mi riguarda, era un po' questa la scommessa, diciamo, riuscire a dimostrare che seppur quei fatti avvenuti a Fossano, a Torino, fossero stati effettivamente qualificabili come stragi, non erano certamente attribuibili agli odierni imputati, e invece noi per la seconda volta, neanche in secondo grado di giudizio, ci è stato affermato il contrario, e soprattutto l'ulteriore passaggio che tendevamo a ribadire è che la FAI non fosse possibile ritenerla un'associazione terroristica, e invece anche su quello ne usciamo sconfitti, ne usciamo un po' con le ossa rotte, e poi ci sono mille considerazioni da fare anche in relazione al contesto nel quale è stato celebrato questo processo, ovvero quello di Torino, e con la grande pressione non solo mediatica ma anche certamente dei poteri di quella città finalizzati ad ottenere questo risultato. Però fatto, cioè, adesso a prescindere da tutte le valutazioni di ordine metagiuridico, per cui che escludono la valutazione giuridica, comunque questo è il fatto, usciamo con una sentenza che riconosce l'attribuzione di queste due fattispecie di reato così gravi a due imputati, che hanno riportato 20 e 16 anni e 6 mesi, e la sussistenza del reato associativo sempre nei confronti di tre imputati, nonostante a detta della procura tutti quanti imputati dovessero essere condannati come partecipi o promotori dell'associazione, e invece in realtà è stata esclusa per loro qualsiasi ricorrenza, qualsiasi intranità all'associazione stessa. Alle note positive, perché ce ne sono sicuramente, alcuni imputati certamente hanno ricevuto un giudizio a loro favorevole e verosimilmente la partita di questo processo non era quella, comunque, ma questo che vi ho detto prima, diciamo. Ok, guarda. Questo è più o meno il senso a caldo, no? Perché chiaramente il dispositivo è stato pronunciato il 24, per cui siamo ancora a valutazioni, alle prime valutazioni, i primi ragionamenti in merito alla sentenza. Per l'istigazione, che se è il, certamente, probabilmente da un punto di vista politico è un altro degli aspetti centrali di questo processo, ovvero come si voglia azzittire quella che è notoriamente la propaganda roboante anarchica, ovvero quel modo così tipizzato, così particolare, peculiare, diciamo, di una, diciamo, della componente anarchica, che è certamente quello di utilizzare anche una terminologia molto roboante nei propri documenti. Viene sancito per la seconda volta in virtù di un approdo giurisprudenziale che nasce da un'altra vicenda processuale che era intentata a Perugia, anche lì per una, diciamo, con un'ipotesi associativa, però fortunatamente naufragata per la procura di Perugia, ma anche per un reato di istigazione per un giornale, una rivista, un'esperienza editoriale, chiamiamola come vogliamo, che si chiamava KNO3, e la sentenza di Cassazione è giunta ad affermare la sussistenza del reato di istigazione a delinquere, e con l'ipotesi, però, con l'aggravante di terrorismo, per cui il quarto comma dell'articolo 414, e affermando una serie di principi di diritto e andando anche a recuperare dei precedenti giurisprudenziali addirittura degli anni 60 per fornire un apparato giustificativo a questa decisione, e che poi verosimilmente è stata, diciamo, non verosimilmente, che poi è stata utilizzata a pieni mani dal pubblico ministero per contestare la sentenza di primo grado, che invece da un punto di vista di forse maggiore garantismo e maggiore aderenza anche al dettato costituzionale, in particolar modo all'articolo 21, aveva ritenuto che tutto ciò che per la procura che aveva indotto la procura a richiedere una condanna per istigazione per tutta una serie di scritti a carico di tantissimi degli imputati del primo grado, la Corte aveva concluso dicendo che no, era una propaganda sovversiva, essendo stata depenalizzata su, tra l'altro, volontà del primo governo che vedeva la partecipazione della Lega, visto quanti suoi militanti erano imputati della medesima fattispecie di reato, e riteneva comunque di ricondurla a una mera propaganda sovversiva e come tale non perseguibile, però perché è abrogato il reato. E la Corte di Assise d'Appello invece ha ribaltato, ha modificato, ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo invece che evidentemente che quegli scritti, quelle frasi, quegli argomenti, così come proposto in numerosi ed eterogenee esperienze editoriali, da quelle online, blog e siti, a quelle cartacei, Croce Nera Anarchica e quant'altro, e nonché iscritti, e ci sono anche altri blog, ci sono trasmissioni in radio nel quale venivano espressi concetti e ragionamenti da parte di questi imputati, invece è stato tutto ricondotto nell'alveo del 414, per cui dell'istigazione a delinquere aggravata dall'ipotesi della finalizzazione di terrorismo, di reati di terrorismo, quindi istigando il compimento di reati di terrorismo. Questo sicuramente è il secondo passaggio. Mi perdonerete che non l'ho menzionato all'inizio, però certamente, vista la gravità delle condanne per altre ipotesi di reato, e soprattutto questo spettro del reato associativo, e per quanto è duttile, modificabile, plasmabile secondo le diverse esigenze, ritenevo in prima battuta, diciamo, di censurare la sentenza su questi due passaggi, ovvero i due reati di strage e il reato associativo, però certamente una ricaduta molto importante lo ha anche l'affermazione che sostanzialmente tutti gli scritti e la modalità scrittoria, diciamo, tipica di una della componente anarchica, soprattutto di quella un po' più effervescente, tra virgolette, venga ricondotta a un'ipotesi di reato, così da minomare anche la possibilità forse di esprimere, secondo le terminologie, diciamo, e quelle argomentazioni tipiche tipiche a mio giudizio, e poi sono tipico o meno, però, diciamo, avendo fatto diversi processi anche su questo argomento, penso di aver maturato un'esperienza, comunque, che tutta una serie di modalità di presentazione dei propri ragionamenti oggi vengono ricondotti automaticamente a un'ipotesi di reato, e pertanto certamente è una spada di Damocle, chiaramente una minaccia espressa anche a potersi esprimere secondo quelle che sono formule molto ricorrenti all'interno di volantini, manifesti e quant'altro. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band di Roma, loro sono i Drumspell, questo è il loro album Barbarie Futura, che è uscito nelle scorse settimane, e ci ascoltiamo ancora comunque un brano appunto da questa band romana, i Drumspell. We'll be right back. Ecco, e per completare per questa sera l'approfondimento sull'operazione Scriptamanent, voglio leggervi alcune parti molto interessanti e significative della memoria difensiva di Anna Beniamino per questo processo d'appello. Ci dice Anna: non è nuovo il tentativo di trasformare in associazione sovversiva con finalità di terrorismo i legami solidali che stanno alla base dell'agire anarchico. Si sta processando l'idea di solidarietà ai prigionieri prima e tra prigionieri poi, quella solidarietà che da anarchici definiamo solidarietà e complicità. Da anarchica mi trovo di fronte ad una interpretazione fantapolitica di 25 anni di vicende anarchiche. Basterebbe interiorizzare che gli anarchici sono anti-autoritari e rifiutano la delega politica per capire quanto sia agghiacciante per me avere una condanna quale componente di una sorta di comitato direttivo centrale che svolge funzione di direzione strategica rispetto alle singole cellule, o di avere un ruolo preminente, di effettuare audizioni, di fidelizzare o radicalizzare. Tutti i termini, appunto, questi citati da Anna, che sono utilizzati dall'accusa. Le discussioni diventano audizioni, le passeggiate sopralluoghi, i rapporti personali fidelizzazioni, i concerti punk nei posti occupati incontri riservati. Sugli errori storico-politici dell'accusa: l'insurrezionalismo non l'ha inventato Alfredo Maria Bonanno e non è stato scoperto negli anni 90 grazie al processo Marini, operazione Pontelungo. Il movimento anarchico è insurrezionale nelle sue radici storiche. Basti pensare ai moti insurrezionali del 1874, Bakunin in Romagna, e 1877, Malatesta e Caffiero con la banda del Matese nel Beneventano. Il federalismo è concetto familiare a tutto l'anarchismo. Si pensi a Proudhon e al suo del principio federativo, in contrapposizione alla centralizzazione statale. L'informalità non è neppure lei una novità, ma il contraltare anarchico ai rapporti formali propri dei partiti politici, che tutti gli anarchici rifiutano, rifiutando la delega e la formalizzazione dei ruoli. I gruppi di affinità sono una delle forme di naturale aggregazione del movimento anarchico, a partire dalle esperienze spagnole degli anni 30 fino alla riproposizione moderna, ad esempio in Butchkin. Il mutuo appoggio non è un disciplinare di condotta del consorzio FAI, come indicato dal PM in udienza, ma un concetto sviluppato a partire dal noto testo dell'Ottocento, Il mutuo appoggio di Kropotkin, in cui lo si analizza come naturale tendenza alla cooperazione nel mondo animale in contrapposizione alla competizione tra specie, cioè quello che si auspicherebbe come un disciplinare di condotta dei rapporti solidali nel consorzio umano. Sono imputata e condannata in primo grado per terrorismo. Non me ne compiaccio, ma cerco di non farmi spaventare. Da anarchici non dobbiamo spaventarci se ci accusano di terrorismo. L'articolo 270 bis fiocca con una facilità disarmante nelle imputazioni di movimento. L'accusa di essere terroristi è storica per gli anarchici. L'importante è mantenere salda la difesa delle proprie idee e pratiche, che sono tutto meno che indiscriminate e atte a portare il terrore nella popolazione. Peraltro, terroristi sono definiti dallo Stato turco quegli avvocati morti durante lo sciopero della fame in carcere, condannati per terrorismo e per i quali in quest'aula è stato osservato un minuto di silenzio il 16 settembre. Il PM in appello mi inserisce tra gli imputati storici della FAI, ammettendo che è da 20 anni che mi indagano. Perché? Perché ho pubblicato sul blog di Croce Nera e su precedenti giornali rivendicazioni o contributi senza portarne copia in questura. Questo è il mio modo di fare, è il mio sentire, è lo stesso sentire che mi ha mosso 22 anni fa a sottoscrivere un testo collettivo di più imputati, testo che si intitolava Prospettive operative comuni contro l'atto repressivo ai danni di decine di anarchici e anarchiche, che non è altro che la pubblicazione di un dibattito riguardo la gestione processuale del cosiddetto processo Marini. Oggi come allora, che fosse per i rapinatori del 1994, per gli inquisiti da Marini nel 1996, per Alfredo e Nicola nel 2012 o per quel che sarà, continuo a sostenere che solidarietà e complicità siano orizzonti da difendere sempre, che non vadano censurate ed occultate le posizioni, anche se scomode, della Galassia Anarchica, che è movimento rivoluzionario, non riformista, il cui codice etico non è sovrapponibile al codice penale. E conclude Anna Beniamino: io mantengo la certezza che si sia voluto colpire con ogni mezzo necessario la solidarietà data ai prigionieri anarchici, null'altro. Ecco, solidarietà e complicità che noi rilanciamo e confermiamo e che continueremo a dare sia ai compagni e le compagne dell'operazione colpiti dall'operazione Scriptamanent, sia a tutti i compagni e le compagne, che sono purtroppo circa 200 in questo momento, che sono appunto sotto pressione della repressione. E intanto stiamo ascoltando in sottofondo questa band di Roma, Drumspell, dal loro album proprio uscito nelle scorse settimane, Barbarie Futura. E allora abbiamo ascoltato, come ho già presentato prima, anzi forse troppo, questa band romana, i Drumspell, dal loro album di recente uscita, anzi credo è l'unica loro uscita discografica, prima hanno fatto un demo tape, comunque questo è il loro album, Barbarie Futura. Ora, prima di salutarci e lasciare e far andare un ultimo brano, perché siamo giunti al termine della trasmissione Kezardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì qui in diretta dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20:15, dalle 20:15 circa alle 21:30, vi diamo dei nostri contatti. Per chi volesse scriverci, chi volesse mandare una mail, il contatto nostro è liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org. Poi, per chi volesse scrivere, che è impossibilitato all'uso da internet, eccetera eccetera, ci può scrivere ovviamente ci può scrivere qualsiasi cosa a questo contatto, che è Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 39121 Trieste. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 129, Trieste Centro 39121 Trieste. Bene, quindi siamo giunti al termine della trasmissione, ci salutiamo, vi faccio andare questo ultimo brano preso da questa band ligure, che sono i Crime Gang Bang Band, conosciuti come CGB. Questo è il loro mini album, che era uscito nel 2014, Tra le tue rughe, e noi ci ascoltiamo questo brano. Quindi ciao a tutti, al prossimo giovedì.